Ciao amore, come stai? Ti prego non dirmi che è stata per te solo un'avventura. Ne morirei, credimi, io ti aspetterò. Ciao. La tua valigia è pronta già, hai già deciso, te ne vai. E non ci pensi amore al male che mi fai. Mi stai spezzando il cuore tu, ma cosa vuoi di più? Hai preso gli occhi e i sogni miei, mi rubi l'anima. Arrivederci amore, ciao, a fidels and goodbye. Mio Dio, non ci resisto più, perché mi manchi tu. Amore, ciao, oh fidels and goodbye. E se di notte piangerò, io nel mio pianto fonderò. Io sarò qui ad aspettare. Mi manchi da morire, amore. Ciao. Abbraccio il tuo cuscino, ti sento accanto a me, nell'aria sul mio letto, tutto sa di te. Lo so, dovrò combattere, un'altra via non c'è. Ciao.